tutti di chi è. È così, purtroppo è così. Io per mettere Morisco ho iniziato giovane a lavorare e mi sono divertito e guadagnato un sacco di soldi. Un sacco, capito? Mi ha tolto tutte le soddisfazioni che volevo, tutte. E oggi mi trovo ad avere qualcosa perché me la sono sudata, me la sono lavorata, non ho rubato niente. Però perché l'hai fatto prima, se ti metti a farlo adesso non ci riesci, anche lavorando 12 ore su 12 non ci riesci. O c'è un fondo perché te l'hanno lasciato i tuoi genitori, o perché sei nato come tanta gente, chiaramente, perché non sono geloso di nessuno, sei nato ricco. Però tu devi sapere che mio padre, io sono il quinto dei figli, avevo 3 mesi quando è morto mio padre, non l'ho neanche conosciuto. Mio padre nel 1960 aveva 2 negozi di 8 ricambi e 2 officine, di cui sia Pasqualino Mameli e Salvatore Bugia erano dipendenti, dove hanno continuato quel tipo di attività. Capite? Aveva soldi mio padre. Che se ti informi bene aveva soldi, tanti soldi, però purtroppo è morto. Mia madre c'ha capitale, ne ha l'alghero, ne ha produttore, se ne ha, perché ne ha, rimarrà tutto a noi. Però se fosse stato vivo mio padre sarei stato forse molto più grande di come sono adesso, ma molto, il doppio, il triplo, il quadruplo. Purtroppo è successo così, è successo. Lui era forte, era, cioè in quegli anni lì, cioè sicuramente aveva il è stato bene proprio, non te l'ha mancato nulla, cioè proprio a livelli, purtroppo, è così. Ma cos'è morto quest'uomo? Di malattia? Nel 1960 aveva un calcolo a CT Feller. L'hanno operato, non si sono accorti che era diabetico. Ed è morto, gli hanno fatto l'anestesia e non si è più svegliato. Mamma mia. Non ce lo racconta mia madre ancora oggi, che diceva, stai attento, mia madre aveva 33 anni quando è morto suo padre, non si è mai risposata, quindi immagina già di due. È entrata alla messa dell'OPT, allora c'è l'OPT a Leriche, tramite mio zio che era un pezzo grosso, è stato anche sindaco a Porto, c'è una della regione, di Mare Francesco, che è morto. Poi l'avevo fatto entrare all'OPT, alla mancia dell'OPT dell'Eriche, e poi da lì l'avevo fatto entrare all'Istituto Nautico Bidella, e da lì è andato in pensione. Quindi ci ha fatto grandi, ma fondi ne aveva ancora mia madre, perché ancora oggi ci ha appartamenti affittati a Colocosi, a Margo, eccetera, però è chiaro che la roba sua non è roba nostra, ma ci era male tutto a noi, per dirti come va la vita, capito? E io per un po' di anni l'imprenditore, l'ho fatto, poi non ce la facevo più altro, perché il lavoro che avevo io da corriere non era lavoro da giocare, io uscivo la mattina alle 6, rientravo la sera alle 7, alle 8, alle 4, anche alle 10 di notte, quindi c'erano 3 persone con me e quindi dovevamo lavorare, ma campati da casa 4 famiglie, 3 più io, quindi è capitato che c'è stato questa cosa, entrare all'ESAF come contrattista, sono entrato come contrattista, quando ho fatto il concorso l'ho fatto, l'ho vinto e invece me ne sono andato, anche cambiando società, diverse società, sempre quello era il lavoro tu. E così è la vita, così è. E sono stato fortunato, credimi che sono stato molto fortunato, perché in altre occasioni fare tutti quei passaggi che ho fatto io non era facile. Non era facile, no. Meno male, dai, meno male. Ti è andata bene, perché se no è andato male. Se avessi visto un concorso, dici di va. come te la zimbogna di Santa Maria, se tu fa, se non avresti vinto quel concorso. Meno male che ti è andata bene, va. Lo so, mi ero anche ritirato da scuola, mi sono dovuto iscrivere e finire. E sono io, perché altrimenti non potevo manco rimanere davvero, capito? Perciò, perché c'era stato un concorso per titoli d'esame, quindi un concorso interno, ma poi dovevi per forza avere le prove, quindi anche lì lavoravo e studiavo, Antonio, ho fatto il sacrificio e non voglio tornare indietro con il passato, però ne ho fatto tanti, io mi portavo tutto al lavoro per studiare, per prepararmi per gli esami, ma poi facevo dalle 6 alle 2. C'era molto traffico, ma quando facevo dalle 2 alle 10 o dalle 10 alle 6, io mi mettevo a studiare anche di notte perché non dormivo ancora, capito? E tanto che gabuzzavo, mi chiudevo babbo alla scrivania e mi svegliavo di colpo, cazzo, non, e c'era l'impianto sul percorso, capito? Ha ragione, avete gli animi, ancora. Fare un turno di notte all'impianto di Birfo, che adesso è chiuso, perché hanno aperto quello grande a Pedra Maiore. Il turno lì di notte, un impianto in mezzo alla campagna, tutto illuminato, ma sempre in mezzo alla campagna, sì, era giù davanti ai cani, e tu immaginati, ogni tanto, non sempre, ma ogni tanto scendevano anche la forestale, i carabinieri di notte, capito, avevo bisogno di qualcosa, chiunque c'era in turno, proprio per controllare, perché era anche molto pericoloso. Quindi non ho giocato ancora, ne ho fatto. E quando ho lavorato a Cagliari, alla Saras, ti dico solo che non c'era la possibilità i primi anni, il primo tempo, perché poi stavamo bene, c'era anche la luce, eccetera, ma proprio io dormivo una barracca di legna, hai capito? Mamma mia, non hai passato burudura. Dopo si verrà freddo, era nel capuritmo mia. Stufa elettrica, Antonio. Stufa elettrica, non a gas, perché a gas è la pericolosa. Stufa elettrica, molta attenzione per riscaldare la stanza che avevamo. Eravamo in due ed eravamo prefabbricato in legno. Fatelo dopo. Stufa elettrica per scaldare e tuba del taglio. A mangiare c'era la mensa. E quindi si viveva, però portavo i soldini a casa, quindi come vengono a dire persone di 70 anni, che sono 40 anni in pensione, che hanno travagliato una vita, non ho già travagliato 30 anni, fendigosa, c'è gente che ha veramente fatto tanti sacrifici, di cui più grandi di me, di quegli anziani, ma c'è gente che ci ha ballato le balle, capito? Quindi lasciamo perdere. E tornando al discorso che abbiamo, è così. Prima potevi fare tante cose, ancora. Adesso l'ho provato più. Già lo so, già. E ti vuoi burugagliare la muda. A capo travaglio non viene più come te prima. Allora devi burugagliare la muda e accontentarti di quello che c'è. Se no non mangi nemmeno me. Poi hanno un sacco di pretese, non ricordiamo parlando, ma un sacco di pretese, capito? A me, io ero fisso nella zona della Gallura, ma sai quante volte mi chiamavano alle 11 di notte, uno dei miei dirigenti, che abbiamo un rapporto ancora oggi fantastico, perché ci sentiamo molto, molto spesso, così giusto per farti capire come mi sono sempre comportato io al lavoro. Non so se ho preso di merda fuori lavoro, ma nel lavoro ero molto, molto voluto bene. E ci sentiamo spesso con questo dirigente che è un ingegnere tecnico, non è un imbecille, capito? Ingegnere Cazzi, che abita a Cagliari. Allora mi chiamava, qua c'è un problema. Anzi, Marti, di cognome mi chiamo, Marti, c'è un problema. C'è che problema c'è. Domani bisogna andare a coprire la zona di Olbia. E come mai? Quello che c'era non ha fatto, te lo spiego domani. È andato. Quando chiamava anche di un altro, no, Gennaro, non me la sento, qui e là, ma come faccio? Non conosco la zona, non le pare a lei che io volevo spostare dalla mia zona per andare a coprire un'altra. tutti cuscirali, tutti cuscini, tutti, tutti. E io ero sempre disponibile, quindi quante volte con Giulio abbiamo parlato di questa cosa. Che magari sabato in radio come oggi, no? Oh, vabbè, come così. Oh, io vi saluto perché devo andare a Nama davanti a me domani domenica, e devo lavorare domani. E tu sei travagliato domenica passata, devo lavorare anche questa, perché Tizio, Caio e Centonio hanno marcato visita. Io coprivo a tutti, non avevo mai nessun problema. Lucia, niente, no, non si adattano molti a tutte le cose, ma io lo vedo, certe persone adattarsi a certi tipi di lavori, mamma mia, pare che si domandano nel mondo, è qua, è incredibile qua, lo so pure io adesso queste cose, purtroppo no, non tutte le persone si adattano ai lavori, e questa è la realtà. Vuole va, ghisso, vuole va, e boh. Non ne va solo visto. Lo so, però ti ripeto, io posso garantire per me, ti giuro sulla tomba di mio padre, che tutto quello che ti ho detto è pura verità, non nascondo niente, però c'è molta gente che non ha voglia di lavorare, non ne ha voglia, io te lo dico tranquillamente, perché io ho lavorato 27 anni nell'impianto di depurazione, 27 anni. Perché prima ero nell'impianto di potabilizzazione, in tutto 35 anni in quel settore, e ti posso garantire che di batti la viacca, come io li chiamavo, lo sai quanti ce n'erano, ma un mare, una marea. Io ho fatto per anni il responsabile di squadra, nel senso che avevo una squadra e mi dovevo occupare di quello, il mio dirigente mi dava l'ordine di servizio e io con queste persone che avevo a disposizione dovevo sviluppare quel lavoro. C'erano alcuni che veramente erano a portare sul palmo la mano perché si facevano appena, ma altri, tipo ti faccio un nome, Giova, domani mattina quell'impianto deve essere finito, perché ci sono i collaudi, ma stai scherzando, domani mattina te lo finisco. Passavo 3, 4, 5, 6 volte, non lo trovavo mai io all'impianto, mai, e in dire, rubate. Questo però era da fare la segnalazione con i tiro vola, perché se lavoro, da voi rubarti lo puoi va, allora chi vuoi te lo puoi va. No, veramente no, c'è gente che fa schifo qua, c'è gente che fa veramente schifo, cioè, non travagliano, cioè, non ne vuole fa, per carità, la bulacca bulla via cutto, della birra, del rovino. Prima ci poteva fare solo tizio, non lo so, segnalazioni, ehi, io ho fatto segnalazioni. Una volta c'era già una letta a me, ma io a volte dove dicevo, cerca di evitare di andare a bar, cioè, ma non è possibile, sei qua per lavorare, non puoi fare tutta la vita un po' per rubare, io ho necessità che tu mi finisci col lavoro, io ho necessità che tu mi fai le cose che io ti sto chiedendo, perché te le sto chiedendo, perché le devi fare, sono uno che ti sta dicendo che devi fare quello, vuol dire che a me mi dicono di dirti che devi fare così, non te lo so diceva che mi inviato in comanda, cercando di prendere la buona, ma non solo uno, ma ve ne erano un mare di seguite, uno lo sai che mi ha detto una volta, se mi torri a pigliare a botte e mi dici quello che devo fare, telefona già a me batterino, ti sei fatto qui di fuori. Ma salvi dalla ragione al torto, capito? Perché sta gente incuzzata, borsa in chini, senza sapere neanche dove erano. Fuori senza travagliare. Oh, veramente incredibile. Incredibile. Questi personaggi hanno arruinato me. Hanno arruinato il travaglio questi personaggi. Gente incuzzata. Oh. Cioè, però, allora, se tu sei incuzzato, devi andare sempre nel giusto, devi travagliare. Non che sono incuzzato e mi posso burro di fatti me. Ma non esiste. È così, purtroppo è così. Da giudito di battere la fiacca, ve ne sono beh, ce ne sono tanti ancora, ce ne sono tanti. E gente che ti minaccia solo perché hanno le spalle coperte, capito? antisistema, no? Nell'ambito lavorativo. Capite? E poi vediamo se posso fare di ciò che mi va bene. Fai così, non c'è problema. Ho preso, quando sono arrivato in ufficio, sono sotto un attimo al computer, ho fatto una lettera di richiamo e gli ho fatto fare dall'impiegato una raccomandata a lui e una all'azienda. Avesse poche righe, due righe, così ho scritto, proprio due righe, veloce. Mi hanno chiamato a me prima i dirigenti e mi hanno detto: questa lettera possiamo mandarla avanti? Certo che sì. Perché? Perché così. Anche, sì. Hanno chiamato in ufficio a Cagliari. Allora l'ufficio era via Trieste, non via Trento. E gli hanno detto: questa è una, la seconda è fuori. Dice: ma questa la vede, questa l'ha fatta il suo responsabile del distretto. Quindi, alla seconda che fa il responsabile del distretto, lei è licenziato. Allora dice: c'è poche carreggiate, mi ha detto che non c'era bisogno. Ma mi ha attaccato, ma tu mi fai il secco di fuga, perché ti sto dicendo che devi lavorare invece ballarti. Claudio, controlla qualcosa, è successa qualche cosa. Sì, vai, accendi l'altra, farò raffreddare. Cazzo, lo fa vedendo, è un garage 40. Come un garage 40? Sì, Santiago 5 arrivava. No, qua, avevo commutato, ma l'avevo spostata di chiamata. Ho detto che ho fatto passaggi troppo lunghi ed è andata in protezione, capito? Ma niente, va. Lo fa. Beh, anche quella tua mi lo fa. Ma cosa gli succede, in poche parole? Non passi la ventola? No, già parte la ventola, non ti preoccupare. Parte la ventola. È che ti si ammassa la potenza, capito? Di colpo. Quindi lo lasci raffreddare un attimino e poi riprende normalmente. Lo so, purtroppo so, sai come si asciuga. Non è molto calda però, non è che... Il baracchino, chi dopo so sa pure, non li fa di nulla. Vabbè che non è la stessa situazione, però. Assunto, però con le radio sono così. E c'era solo questo cacchio di 140, lo sai. Se supera quella temperatura, va in protezione. Adesso mi tra 5 minuti te lo riaccendo e vedi che è a posto. Lo abbasso anche di potenza, ma l'ho detto, sicuramente è salita anche una bella potenza, perché quando scalda quella radio è così. Ah, così di via. Ma zucchica. È un bene. Mi sembra che ce l'abbia 140 quel sistema, il C80, 430, 440 non ce l'ha. Capo, magari non scaldarò così. Non lo so. Tanto quando sono pompate le radio, infatti adesso mi l'accendo e abbasso leggermente la potenza, perché altrimenti è un casino, capito? Perché quando scalda e fai passaggi lunghi come stavo facendo io, che supera la potenza, ti dice: oh, abbassa lì. Allora tu te lo dà lui e non dà più di 10 watt. Hai visto come sono calato i segnali? Secondo me stava dando molto di meno. Manco un watt che non era. Perché sa quanto mi stava arrivando? Santiago 5, ti puoi immaginare. Molto meno. Allora proprio stacca completamente lo stadio finale sino ad affondare. Aspettate, proviamo. Se la si è accesa magari c'è la ventola che riesce a toglierlo. Prova a vedere un po'. Ma aspetta, che comodo di nuovo. Prova. Devi lasciarlo un bel po' raffreddare. Prova. No, basta appena che ho tanto qualche minuto, no? Non fa niente. Non so, tanto. Se non conosco questa radio io, ho detto meglio di me non la conosce nessuno. Capo, c'è un coso termico che arriva così, ci stacca magari magari la ventola poi riesce a farla raffreddare e riprende. Sì, aspetta che l'abbasso. Un'altra cosa che so in più, ma io sono rubato, io sì. No, quello no, non penso, vabbè, non lo so, non l'ho mai fatto, questo me l'ho fatto anche con altri 140, quindi suppongo che sia così, capito? Sia questo che sia 80. Cappa, ma avevo un caso stanotte, ma c'è caldo o mi sbaglio? Tanto c'ho la finestra aperta io. La finestra aperta, quindi fatelo bonte. E poi qua lo trattiene il calore, no? Non lo disperde. Quindi ti puoi immaginare un gaggio che fa. Non lo so, ma anche qua è molto, molto calda questa casa, capito? Sì, anche questa. Vabbè, che cosa ci vuoi fare? Comunque, quello che ti ho detto la puoi al tanto, credimi che sacrifici ce ne sono stati fatti tanti. Oggi è un casino. Adesso sei in pensione e ti devi godere un po' la pensione. E via. Ma tu, io sono in pensione, sì. Come capisci, è un lavoro. Io do una mano all'azienda del mio cognato e ogni mese qualche spicciolo riesco a raccimolarlo anche da lì. Ecco perché a volte mi metto a comprare, a fare, sono tutti i soldi extra che entrano. E mia moglie me li lascia, quindi per i miei viti, io viti non mangio niente. Ho qualche di sigaretti, rivalso finiti e qualche baracchino in più, ogni tanto te lo puoi comprare. Sì, ogni tanto te lo compareggi e via. Si va così. L'unico vizio che è quello, le sigarette. E chi c'è si buone ripè a mia? Sì, ma non sono un grande fumatore, il pacchetto che fa due giorni non è quello il problema. Però c'ho il vizio e pazienza, capito? Lo so, no, io non fumo. Mi Sara fuma. Io no, non mi interessa. E fa la fuma. Tanto le 10:30 sono io, ora vedo un po' di TV, grazie alle due chiacche, scusa se ti ho fatto la testa a cacco, l'ho passato, ma sono cose belle da raccontare, perché veramente sono cose belle, sono bei ricordi. Ci aggiorniamo domani? Cappa, no, ci mancherebbe qua, sono tutte cose che a me piacciono, mi piace sentirle. Guarda che anche quando mia nonna mi raccontava dei tempi suoi, io stavo ad ascoltarmi, perché mi piacevano parlare anche di queste cose. No, io apprezzo molto la verità, no, non mi hai fatto nessun capacacco. Ok, ciao Clara, ci sentiamo domani, ok? Domani un po' più tardi, dai, verso sera, ok? Ehi, stavo attentando domani mattina, c'è un po' di cose da fare, vado con Ilaria a fare un po' di spesa, perché lunedì riapre, e quindi vado a mamma a fare un po' di spesa che devo fare. Ci sentiamo a tutti. Ciao, buonanotte, grazie per chiacchiere. Saluto anche tutti quelli che sono in ascolto. Scusate a tutti del dialogo così, ma ripeto, ribadisco, sono bei ricordi che fa sempre piacere ricordare quello che ha lavorato una vita, si può dire. Ciao a tutti, buonanotte. Buonanotte, caro, non ti preoccupare che io apro. apprezzo molto le cose così, mi piacciono. Però detto, ti ribadisco, anche io, cioè, mi piacciono molto i discorsi così. No, ok, buonanotte. Ciao ciao. Buonanotte, alla prossima. Ciao ciao. Ciao ciao.